con l'artista Elisa Franzoi per parlare del progetto Nothing to Sell, dal corpo merce alla libertà di essere, a Roma al Macroasilo dal 3 all'8 settembre 2019. Elisa, ben trovata. Ok, buongiorno Federico, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Ci racconti un po' di questo progetto? Sì, dunque, questa mostra Nothing to Sell, cioè niente da vendere, propone, come è espresso nel sottotitolo, una riflessione che va dal corpo merce alla libertà di essere, ed è un tema che verrà sviluppato nel corso della settimana attraverso un'installazione fotografica e 30 eventi di artiste ospiti nel mio spazio, e eventi completamente gratuiti tra l'altro, come laboratori, conferenze, video, proiezioni, performance di danza, musica, teatro. Prima di illustrare i contenuti ci tengo a sottolineare che questo non è un festival o un evento, ma è proprio una mostra, cioè nell'insieme si configura come una scultura relazionale o è strutturata, diciamo, come una sinfonia o un film in cui tutte le sue parti, gli interventi si uniscono in un unico corpo. Sì. Che va da questa installazione fotografica, che in realtà è il frutto di un processo lunghissimo che dura anche da 2 anni, è il frutto di una open call in cui le persone hanno inviato delle fotografie, e anche frutto di shooting day, cioè giornate in cui fotografi si sono auto-organizzati per raccogliere, e vi dico che cosa, mistero, è le foto delle schiene delle persone, perché tutta questa operazione artistica si basa, non so se avete visto la locandina del manifesto, su quest'immagine di una schiena. Che cosa rappresenta? Rappresenta proprio un'idea di un manifesto antipubblicitario, cioè contro la mercificazione del corpo, in particolare quello della donna, che ritroviamo un po' ovunque nelle pubblicità sessiste, no? Quindi un manifesto che non pubblicizza né il corpo e né oggetti. Da questo primo manifesto, appunto, le persone sono state invitate da tutto il mondo a inviare la foto della propria schiena, foto che troverete in mostra e che siete ancora invitati anche a inviare attraverso il nostro sito, che è nothingtosell.org. Come era nato tutto e come si è sviluppato passo dopo passo? È una cosa particolare, perché è iniziata proprio da una mia semplice fotografia di schiena, e adesso ci ritroviamo con questo grande festival dove sono coinvolte centinaia di persone. Cioè la schiena che io mi ero fatta fotografare era proprio, rappresentava un anti-selfie, no? Cioè è proprio l'unica parte del nostro corpo che non possiamo fotografare, che necessita una collaborazione. E quindi da questa iniziale campagna manifesti nella città siamo arrivati a ospitare tantissime artiste per sviluppare questo concetto che va dal corpo alla consapevolezza, alla libertà. È una mostra per tutti, soprattutto per persone che in qualche modo vogliono rivolgere l'attenzione prima di tutto su se stesse e non puntare sempre il dito fuori da noi, no? In qualche modo nell'insieme vogliamo andare oltre le lotte contro la violenza sulle donne, contro il razzismo, a favore della parità di genere, a favore dei diritti, ma di concentrarci soprattutto sul concetto di libertà che accomuna tutte queste tematiche. Volevo chiederti anche come si articolerà ogni singola giornata. Sono giornate tematiche, quindi per esempio il martedì si concentra soprattutto sulla danza e il corpo, movimento e libertà. Quindi ospitiamo il primo giorno per esempio 2 ballerine danzatrici della Scala di Milano, Stefania Ballone e Gioia Gaudenti, che hanno preparato uno spettacolo appositamente per Nothing to Sell, sotto la direzione di Caterina Serra. Ogni giorno comunque ci saranno 7-8 performance, interventi, video, conferenze. Il mercoledì per esempio è dedicato all'educazione, quindi educazione libera, ci sono dei documentari girati nelle scuole su stereotipi e genere, per questo per esempio di Sara Maino, che ha girato in Trentino con i finanziamenti tra l'altro della provincia autonoma di Trento. Il giovedì una giornata più femminista in cui abbiamo video di videomaker un po' da tutto il mondo, dalla Svizzera, dalla Grecia, dall'Inghilterra. Il venerdì è una giornata invece più dedicata alla cura del corpo. Abbiamo addirittura ospiti fisioterapiste, osteopate e persone che si occupano proprio della cura fisica e interiore del corpo, dove ci faranno fare dei lavori anche di laboratoriali su voce e movimento. Il sabato abbiamo ospiti spettacoli, anche l'autoctona romana Roberta Calandra, con il suo teatro Le strategie del colibrì, e le Asia Riot, un altro gruppo invece torinese, e così via. Insomma, domenica altri interventi dal mondo, segni di resistenza e libertà. Quindi domenica altri artisti ospiti dal mondo. E ci dai tutti i riferimenti internet per i dettagli e le informazioni? Sì, tutto il programma lo trovate sul sito del Museo Macro, Elisa Franzoi, natintusellmacro.it, ma soprattutto nel dettaglio tutta la spiegazione degli interventi lo trovate sul nostro sito www.natintusell.org. In questo sito trovate anche la mail, eventualmente, dove inviare ancora le foto delle vostre schiene che verranno esposte in mostra. Ricordiamo l'appuntamento con la mostra Nothing to Sell, dal corpo merce alla libertà di essere, a Roma al Macro Asilo dal 3 all'8 settembre 2019. Un saluto e un ringraziamento all'artista Elisa Franzoi. Un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi e buona giornata.